Sul genu che chini con paesani, chini disoccupati che nascero siciliani. Un male nascuta, me terra taglia sta muta. A gente che accuma nazzania sempre non c'è stute. Soffi con la ciava chiari, cavisari solitacchi. Politici che assultano i caleni pacchi. Un figliolo cammina a Messini in mezzo ai pidocchi. Io in c'è me città, vide ancora i baracchi. E ne parlano il progresso, sente a me città. Fede come sto cafisso, in c'è sta bissu. Fumando un bicchiere educa, se sente più bello. Cave una testa russa, dura quanto un caldo. Io vivo me quattere che mi chiude e mi occupa. Per fare un po' chi dice le me n'annare più sopra. I facili briganti vi dica su sempre stissi. Ti parano gli anchi ma sono lodi chiudi cessi. Hanno affari malaffari chi compari ai dipari. Sopra i spalli di cristiani che non possono campare. Non mi resta che scappare me n'annare a ciavagliari. Ma non so che chi ogni stari e che ciavaglio ma ciccari. Tagli su genu che chi non è siciliani. Ma chi c'ha affari compare me n'annari. Tagli su genu che chi ne compa i sani. Da ciava chiari che a fare malaffari. Tagli su genu che chi non è siciliani. Ma chi c'ha affari compare me n'annari. Tagli su genu che chi ne compa i sani. Da ciava chiari che a fare malaffari. C'è gente che a Veneto razzi cucche in gestazioni. Se ne fottono i miei via tutti sti faccioni. Vittura su buone accogliere tutti sti buti. Sinzi vati a no ciavagli che spartiscono ai nipoti. E se fossi a me tene me peno la bonna luci. Io per nascere lo scuro da sicuro gli ecco buci. Messi in si chiù budaci su capaci parrari. Ma quanti su capaci da affrontare ora sturmari. E tu che dici? Noi non siamo l'unici a venire i radici. All'amici dell'amici un me futuro è nero come a giacca d'un fascista. Si su pugni all'aria ma scaccio un uber semista. Io sopra un foglio voglio solo la libertà. Ma ancora vivo mi su in c'è casa d'un papà. A Sicilia chi sta ca? Un tuo posto anni sta. L'Italia è Italia pure con malignità. Su pascione se sei dia ne mazia capolezia. Ma cavera camurria su politici mafiosi. Come nania va forte sta fedenzia. I sono loro abbazia chi compari chi fausi. Tagli su genu che chi non è siciliani. Ma chi c'ha affari compari.